gli ha portato i nostri peccati, i nostri dolori, per le sue ferite io sono guarito. Alla croce ha preso tutto per me. Oggi la sua vita scorre in me. Sono guarito nel nome di Gesù. Sono guarito dal sangue versato. La croce ha parlato più forte della morte. Sono guarito dall'amore del Signore. Ha portato i miei peccati sul legno, perché io viva per Dio nella fede. Per le sue ferite ho ricevuto la vita. Oggi la guarigione cresce in me.